Vorrei giocare con te in mezzo ai prati, con le farfalle nel cielo e il sole sul viso, saltare con la tua mano tra le ginestre, sentire la brina bianca sulle mie guance. Vorrei allungare le mani dentro le siepi, quando in estate le more sembrano perle, sentirmi da tante spine anche graffiare. Per ogni carezza e bacio d'amore, portami giù nella vigna, là dove i grappoli baciano il sole, sotto i filari dell'uva, per ogni chicco un bacio d'amore. Portami giù nella vigna, là dove i grappoli baciano il sole, sotto i filari. Braccia, come si piegano i giunchi al soffio del vento, strappare lì sulla terra il fiore che sboccia, quando la luna nel cielo accende il tramonto.